24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Carina la ragazza in seconda fila. È tornato lui, è tornato in gran spolvero, quella risata lì, come fa a farla? Manco a Crozza viene così bene, eh? E va bene, è tornato il Berlu che parla così alle ragazze. Chissà Francesca Pascale, chissà Dudù come se l'è presa per questa battutina, la ragazza in seconda fila, Allora, questa è 24 mattino, buongiorno e buon lunedì, è lunedì. Io mi sono svegliato e il Corriere della Sera ha scritto una pagina che dice più o meno così: se dormi un'ora in più previeni le malattie. Ma va. Però non l'ho stracciato il Corriere, non l'ho stracciato per rispetto nei confronti dei giornali, insomma. E quindi va bene così. Allora saluto Miriam Lucchetti in redazione insieme a Carmelo Lauricella, anche oggi in regia. Fa una faccia, come dire, anche mai mi tocca anche oggi. Carmelo, che devi fare? Vuoi andare a bere un caffè? No, fai pure. Apriamo il Parlamento. E qui ci sono un sacco di cose da dire. Salutiamo Nicole Minetti, che non so, ma che fine ha fatto? Ma una mezza intervista, una dichiarazione, ma nessuno che... Non so, forse manco questi di Libero riescono a recuperarne qualcosa. Massimo De Manzoni, ben trovato, vice direttore di Libero. Quante ore dormi tu a notte? Troppo poche, ma anch'io ho visto quel titolo lì mi ha ucciso. Ho detto porca miseria, un'ora in più a dormire. È un esperimento praticamente: se si dorme 6 ore e mezza notte si rischia di ammalarsi di più rispetto a chi dorme 7 ore e mezza. Vabbè. Sono a rischio. Vabbè, sei a rischio, va bene. Allora io voglio... Abbiamo una canzoncina consolatoria per introdurre la nostra amica Silvia Brasca. Oh. Senti che ritmo. Oh, oggi la metto io con Coduri, gioia. Cara Silvia, buongiorno, come va? Buongiorno. Come va? Certo, celebrare una vittoria della Juventus è l'ultima cosa che mi sarebbe mai capitata. Ecco, vedi cosa sei costretto. No, sono veramente uno straccio. L'ultima cosa che avrei potuto pensare di fare nella vita è celebrare una vittoria della Juventus. Però questo è un altro punticino che abbiamo preso e ormai stiamo arrivando, come si suol dire. Vabbè, aspettiamo. Silvia Brasca è interista, si sa, io sul 3-0 spento, poi ho visto che è finita 3-1, bene così? Avete quasi rimontato? Un disastro. Sì, va bene, disastro. Qui ci sono tante cose di cui parlare. I giornali, ecco, voglio fare una domanda intanto. Pare che gli arabi siano sul punto di prendere l'Italia. Allora, Massimo De Manzoni, va bene così? Ci sta bene? Perché insomma, intanto ci si chiede, ma cosa avranno poi gli arabi da comprare? Cosa ci troveranno di prezioso in Alitalia? Però pare sia così. Massimo. Sì. Sì, va bene così, perché è meglio, sono meglio gli arabi degli francesi come partner, perché aprono nuovi mercati, perché hanno interesse a portare qui i turisti, mentre i francesi hanno più interesse a portarseli in Francia, per cui sì. Va bene gli arabi. Dobbiamo avere dei partner e mi sembra che l'Italia abbia assolutamente bisogno di partner. Sono meglio gli arabi di francesi. Sono meglio gli arabi, no? Perché inizieranno magari quale campagna a dire: ah, ma svendiamo agli arabi, svendiamo di qui. Non so, Silvia Brasca, a te questa cosa suscita qualche tipo di interesse? Pare che Etihad, tra l'altro, il principe, non chiedetemi il nome, Al Nayan si chiama, ma ne ha 5 prima di nomi. Pare che abbia un passato all'Accademia Militare di Pozzuoli, e quindi questo aeronautica. Sì, l'ho letto anch'io. Guarda, venisse qualcuno che la sistemasse e va bene, basta che non ci perdiamo degli altri soldi, ecco. Sì, però quindi, insomma, siamo sempre lì, cioè la Fiat va all'estero anche se in modo diverso, all'Italia agli arabi. Insomma, la sensazione che non siamo più in grado di fare qualcosa di positivo, in grado di imporsi o no, non è una considerazione questa da fare. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci venga ad aiutare, questo è dato di fatto. L'Italia non sta in piedi da sola, questo ormai si è visto. Da sola, ma nel senso, cioè gli imprenditori italiani che dovevano la cordata famosa, che è successo? E adesso chiediamo gli aiuti agli arabi, questo è dato di fatto. Ma è una questione che succede in tutti i campi, anche con la Fiat abbiamo fatto un'operazione contraria, siamo andati a comprare invece negli Stati Uniti. Il problema è che certe attività non stanno in piedi se non su grande scala, del resto anche le altre compagnie si sono fuse, non è più possibile avere una compagnia che vive solo con i suoi traffici, deve fondersi con altra, deve trovare nuove soluzioni e una scala maggiore. È questo. Allora, viva. Benvengano gli arabi. Benvengano gli arabi. Viva gli arabi, cara Silvia. Viva gli arabi. Allora, l'hai visto Berlusconi? Berlusconi è tornato. L'abbiamo tutto sentito. L'ho visto. No, come tutto. Per lavoro. No. Pensavo ti volessi fare del male, cioè in maniera. Se solo Vincino arriva a questi livelli di masochismo, cioè vedersi le giornate alla Camera, i comizi dei politici. Oh, sai che ha regalato anche la sua barzelletta. Ecco, ma certo. No, vabbè, ma allora, a parte che la barzelletta che insomma data tipo 30 anni, una roba del genere, ma allora era lì a lanciare la candidatura di Ugo Cappellacci, attenzione, di Ugo Cappellacci, ripeto, Ugo, nome di battesimo, Cappellacci, e Berlusconi racconta questa barzelletta. Venne un giorno da me un signore che si chiamava Giancarlo Merda, e mi chiese di cambiare il nome, e io ritenni questa richiesta assolutamente giusta, me ne occupai e in 15 giorni ottenni la possibilità di cambiargli il nome, e poi per curiosità gli dissi: bene, può cambiarlo, e come si vuol chiamare? Disse: Ugo Merda. Ma no, Ugo no, Ugo Merda no, c'era Cappellacci lì a fianco, ma con tutti i nomi che poteva scegliere, Ugo Merda. Ma Silvia, ma te li vedi adesso? Allora, tu hai parlato all'inizio, ha fatto una gag, sì. E lui dice per la storia, insomma, e lo chiama Franco. Sì. La cosa terribile erano delle risate comunque sgangherate che c'erano intorno, una barzelletta, ma neanche Bramieri quando ero bambina l'avrebbe più raccontata. Vabbè, ho capito. No, ma soprattutto Ugo Merda, caro Massimo De Manzoni, se uno isola questo audio, non so, l'avversario politico in Sardegna che ci può fare? Questa volta ha sbagliato, il grande Berlusconi ha sbagliato, caro Massimo. Ma sì, sbaglia anche lui. Io non ho capito niente dell'audio, devo dire la verità. Ha detto la barzelletta, c'è un signore che si chiamava Giancarlo Merda, lui in 15 giorni gli ha fatto cambiare il nome, gli ha detto, e come ha scelto? E che nome ha scelto? Ugo Merda. Ma Ugo Merda, c'è uno slogan con cappellacci lì che non si può dire, poteva scegliere qualsiasi nome. Vabbè. Sì, poteva venirgli meglio, dai. Vabbè. Ma è un Berlusconi, sentite su Toti, basta, è tornato Berlusconi. Poi parliamo della questione degli insulti, perché è quell'altro grande tema della rete. Berlusconi. Ho chiesto a un mio amico che da 22 anni lavorava in Mediaset di venire a darmi una mano, ha rinunciato a uno stipendio altissimo come tutti quelli di Mediaset e ve lo presento, eccolo, dov'è? Si chiama Giovanni Toti, è venuto per amor mio, ma voglio precisare che non siamo due gay. Eccoli, vabbè, cara Silvia Brasca, ti sei beccata anche questo nel... Tutto. Io ho lavorato, sai, tantissimi anni a Mediaset, quindi Toti lo conosco proprio da quando è arrivato, fa un po' impressione dello alzare lì di fianco alla Pascale, però, insomma... è sempre vissuto di politica, è sempre stata la sua passione. Non mi meraviglia questo ruolo, ecco. Certo che Berlusconi è proprio uguale, impressionante, i tempi comici non cambia mai, non cambierà mai. Va bene, dai, parliamo del tema del giorno che ancora continua, noi ne parleremo anche alle 8:15, insomma, questa vicenda degli insulti che continuano, non continuano. Vogliamo sentire ieri Laura Boldrini, presidente della Camera, ha chiamato prima Giletti a Domenica Inn, all'Arena, poi si è accomodata nel salotto di Fabio Fazio e ha detto delle frasi molto dure, contro di me potenziali stupratori. Sapete, la vicenda è che è stato postato questo post sul blog di Beppe Grillo, sono in auto con la Boldrini, cosa fareste con lei, più o meno, e ne sono uscite, no? Però Massimo De Manzoni, è uscito il verminaio della rete, no? Tutto quello che la gente usa come sfogatoio. Ora, che bisogna fare? Qual è l'atteggiamento giusto secondo te da tenere, caro Massimo? Intanto capire che purtroppo la situazione è questa, la rete con l'anonimato soprattutto consente lo sfogo di questi istinti, di queste volgarità, ma non è da oggi, è con la Boldrini che è successo. E poi magari evitare di sollecitarle, cioè, una cosa imperdonabile di Grillo è che ci tocca difendere la Boldrini, cioè uno dei peggiori presidenti della Camera mai apparsi in Italia, adesso ci tocca difendere, perché è chiaro che questo qui la mette in una situazione assolutamente sgradevole, allucinante. Quindi ci tocca anche di fare dei favori agli avversari politici di questo tipo, perché questi sono dei boomerang che lancia Grillo, non capisco perché lo fa. Oggi, intanto forse perché se ne parla da 2 o 3 giorni, non so, Silvia Brasca, può essere anche questa una strategia di comunicazione, se ne sta parlando. Adesso Beppe Grillo è quello che dice no, è intervenuto a dire no, i partiti ormai sono morti, siate più teneri, come dire, sono io, datemi solo una caretta, sono anche stanca, sanno perfettamente che se postano una cosa del genere, ripeto, viene fuori, avete ragione, il verminaio della rete, ma sono anche stanca di quello, cioè da una parte appunto arriva Di Battista dalla Bignardi a fare il piacione e dall'altra poi fanno scatenare loro con una stupidità, una volgarità indegna. C'è da dire che cosa fare, per esempio oggi Luciano Canfora su Repubblica fa un'intervista a dire ma basta, anche invitando i giornali, e qui abbiamo Massimo De Manzoni, basta, io non capisco, dice Canfora, quale demone si sia impossessato dei giornali che dedicano pagine e pagine a queste vicende di Beppe Grillo. Come dire, basta, non parlatene più. Per esempio c'è uno che ieri ha bruciato un libro di Corrado Augias perché Augias gli ha dato del fascismo. Ma vi rendete conto, Massimo? Ha bruciato un libro, uno del Movimento 5 Stelle, e ha messo la foto su Twitter del libro di Augias che bruciava. Ma siamo a questi livelli, cioè. Sì, però non è neanche che la soluzione possa essere non parliamone più. Questi sono uno dei tre partiti grossi italiani. Ancora i sondaggi li stimano tra il 20 e il 22%. Sì, ma voglio dire, cioè, faranno... Come facciamo a non parlare di una forza politica di questo tipo? Certo, bisognerebbe parlare di azioni politiche, ma appunto, se poi le azioni politiche fanno queste cose qui, di questo sei costretto a parlare. Anche perché poi la gente si renda conto di chi sta votando. Purtroppo, temo che molti lo votino proprio per questo, e questo, devo dire, fa un po' paura. Ecco. Sentiamo la Boldrini ieri da Fazio, appunto, stupratori potenziali, ha detto. Chi segue questo blog, chi partecipa a questi sondaggi, non so neanche come chiamarli, non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che... è inaccettabile. Questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori, perché la gran parte di questi che hanno commentato erano istigazione a questa cosa qua, dicevo. Erano, come dire, potenziali stupratori, così li definisce Laura Boldrini. Silvia, tu che sei donna, che ne pensi? C'è anche una questione di genere in questo tipo di insulti? Certo, perché è una donna, quindi il primo insulto che viene fuori, se si leggevano parte dei post, erano proprio di natura sessuale. Lo dice, cioè, appunto questa mattina su Repubblica, che dice la rete, il 90% dell'aggressione in rete col bersaglio profili femminili. Se devi andare contro una donna, vai lì, non ce n'è. Quindi potenziali stupratori, fa bene lei usare un termine forte, ma perlomeno verbalmente lo sono. Certo, certo, qui poi si può discutere del fatto che molta gente, quando va sulla rete, pensa di essere così anonima, pensa di dire quello che vuole, pensa di dire la prima cosa che gli passa nella testa, cosa che secondo me non farebbe mai se si trovasse di fronte la persona fisicamente. Però certamente il problema non può essere derubricato a qualcosa che non è importante. 24 mattino. Buongiorno. Oggi gli italiani si strappano le vesti perché le fabbriche vanno all'estero e licenziano gli operai a causa dell'eccessivo costo del lavoro. Non si ricordano però che ieri hanno detto no al nucleare, che avrebbe dimezzato i costi dell'energia elettrica. Lancio un appello ai presidenti della provincia di Viterbo e di Roma. Signori presidenti, venite a rifarci la strada che collega Faleria a Rignano Flaminio. I cittadini non ne possono più di questa strada. Signori presidenti, perché dovremmo pagarvi il bollo se poi non abbiamo in cambio niente? Cioè, le strade sono impraticabili, a rischio della nostra vita e soprattutto con costi di manutenzione delle autovetture insopportabili in questi momenti di crisi in cui nelle famiglie si perde il lavoro. Poi Milan, ricordi la vecchia battuta, piove governo ladro? Ma avete fatto caso che da quando c'è questo governo ci sono state alluvioni, vedi la Sardegna, pioggia continua, non smette mai. Non lo so, ci sarà un motivo. Casaleggio ha una stupenda capigliatura, enorme, potenzialmente un grande albergo per i pidocchi, un grande albergo naturalmente a 5 stelle. Milan, io lo so che tu sei grillino dentro, lo so che dentro di te c'è un grillo in miniatura che vuole esplodere, che vorrebbe fare un casino. Dillo che non c'è la democrazia in questo momento, dillo che gli interessi del popolo non c'è nessuno se non il movimento che le sta facendo. Dillo che sei grillino dentro, dillo! Ciao Milan, sono Mourinho. Volevo dirti che il number one sono io, non tu. Ciao Pirla. Cara Silvia, c'è Mourinho che ci lascia i messaggi anche. Ci hai sentito, Mourinho, che mi dà del pirla, ma un pirla da Mourinho si può anche accettare. Ma no, cos'è quello? Sei grillino. Mamma mia, ragazzi, ma che gente c'è il lunedì? Ma no, sono grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori della segreteria. Allora, oggi, giusto per chiudere questa pagina, Ferrara, lo leggerò poi in rassegna stampa, Grillo è un nazista, ha il Führerprinzip incarnato, va bandito dalla società pubblica con metodi rigorosi ed estremi. E sento già il cretino cognitivo, ma così gli facciamo un favore e facciamoglielo. Cioè, questa è la linea di Giuliano Ferrara, andrebbe escluso con metodi anche duri. Vabbè, invece chi si è autoescluso è Antonio Mastrapasqua. Caro Massimo De Manzoni, voi gliel'avete fatta, voi gliel'avete tirata, Gli abbiamo dato una mano, avete tirato fuori questa cosa del passato che peraltro era un po' sconosciuta, no? Non è che... No, era assolutamente sconosciuta. Ah, cioè proprio... È stato un grande colpo giornalistico di Libero, da quel punto di che vista, ha scoperto che Mastrapasqua si era comprato un paio di esami per fare la laurea. Poi dopo è stato beccato, li ha rifatti, si è rilaureato, è stato riabilitato. Sì, questo è il concetto. È stato condannato a dieci mesi per falso ideologico, che non è proprio... No, è chiaro. Ma sentite questo spot che abbiamo recuperato qualche tempo fa, lo faceva Mastrapasqua, credo, in prima persona. Molti pensano che l'INPS sia solo pensioni, ma le donne e gli uomini che lavorano all'istituto fanno tante cose per tutti. Ad esempio, assicuriamo assistenza alle famiglie con il sostegno alla maternità e gli assegni familiari. Vabbè. Cioè lui in prima persona, De Manzoni, e invece vedi le cose come cambiano. Ma questa cosa della laurea secondo te è stata un po', come dire, la... No? Diciamo che è stato il colpo di grazia, nel senso, lui era già nel mirino, ovviamente, perché è sotto inchiesta per l'ospedale israelitico che dirige e tutti i suoi conflitti di interessi con l'INPS e tutte le sue poltrone, eccetera. Però fino al giorno prima aveva detto non mi dimetto, non vedo perché dovrei dimettermi. Poi dopo ha letto il giornale, ha letto Libero. Visto che c'era un altro fronte che si apriva. Io adesso, con tutta la buona volontà, uno che è stato condannato per... falso ideologico, penso che, anzi, l'abbiamo anche scritto. Ma la questione è: lo sapevano. L'amministrazione che gli impedirebbe di assumere. Ma infatti, la questione è: tu dici non si sapeva dal punto di vista giornalistico, ma lo sapeva chi di dovere? Questa è la domanda. Io ieri ho provato a chiederlo a Sacconi e Tremonti, ma non hanno risposto. Sono negati. Hanno fatto una due diligence. Perché secondo te, Silvia, lo sapeva, non Sacconi o Tremonti, ma diciamo lo si sapeva nell'ambiente? No. Ma secondo me non penso, non lo so. È stato influente sulle sue dimissioni. Questo sì, è stato il colpo di grazia. Poi il giorno dopo Libero ha scritto che anche chi, la Lady Armellini, quella delle 1243 case, si sarebbe comprata la laurea. Si è comprata la laurea. Sì, sono notizie, non è che sono in azione. Nella vicenda Mastrapasqua si è scoperto questo. Giacomo Amadori ha scoperto che anche Miss 1243 case, come la chiamano ormai, lei ha fatto la stessa cosa di Mastrapasqua, però dopo si è stuffata, non si è neanche laureata. Si è comprato un pezzettino. Vabbè, allora io vi ringrazio, Massimo De Manzoni e Silvia Brasca, laureata invece nell'aula fumo della scuola della statale di Milano, scienze politiche, giusto Silvia? Giusto, va bene, grazie, alla prossima. Mila, io lo so che tu sei grillino dentro, lo so, dillo che sei grillino dentro, dillo. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.

Sabatini, la crisi è finita, ma Squinzi boccia il governo, cambi passo o si va a votare. C'è ancora spazio per che cosa? Per che cosa? Beh, alcune notizie di cronaca. La prima, quando l'ho letta sui giornali, mi ha fatto un pochino imbufalire. Quanto può cambiarci in meglio un'ora di sonno in più ogni notte? Ho preso il Corriere oggi, quando ho letto questa notizia, e volevo, non l'ho stracciato giusto per, perché la notizia è importante, insomma. C'è stato uno studio scientifico, hanno preso un gruppo di persone che dormiva e le hanno fatte dormire 6 ore e mezza, e altre, un altro gruppo di persone le hanno fatte dormire 7 ore e mezza. Hanno visto che quelle che dormono 7 ore e mezza, quindi un'ora in più invece di 6 ore e mezza, hanno effetti benefici. È già 6 ore e mezza, è già, sarebbe già tanto. Io, Carmelo dice 3 ore, io, tu Miriam quanto? 5. Ma arriviamo a 6 ore e mezza se ci mettiamo in 3 più o meno. Vabbè, comunque, questo studio scientifico che mi mette di buon umore lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 21. Eccolo qua il titolo della Gazzetta dello Sport. Dobbiamo mettere: troppa Juve per l'Inter. Troppa Juve per l'Inter. Questo è il titolo di prima pagina. Ma siamo, cari ascoltatori, al momento conclusivo, quello dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Riparte una settimana di classifica e vince, stravince oggi il giornale che dedica 3/4 di pagina con Daniela Uva, cari ascoltatori, a questo titolo: ombrelli, tende e divani, com'è bestiale questo design. Oh, una pagina sul design, vabbè, una pagina su cosa? Gli oggetti. Rivisti e corretti a misura di animali, il design per i cani, gli ombrelli rovesciati per proteggerli quando piove, la cuccia a forma da tenda di indiani, il lettino da spiaggia no, il lettino da spiaggia per i cani no, no, amici del giornale, la carta costa e voi non ve ne rendete conto. È tempo di giornale radio, il lettino da spiaggia per i cani. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, la presidente della Camera Laura Boldrini ha definito potenziali stupratori quelli che alcuni che sul blog di Beppe Grillo l'hanno ricoperta di insulti, molti dei quali a sfondo sessuale. Insomma, non c'è pace. Lo scontro politico della scorsa settimana, che è nato da questo contestato provvedimento, il decreto che metteva insieme Banca Italia e IMU, che è stato contestato dal Movimento 5 Stelle, o che hanno fatto ostruzionismo contro l'approvazione di questo decreto, l'uso della ghigliottina da parte di Laura Boldrini alla Camera. E poi dalla questione politica si è tutto degenerato in una serie di insulti con animi concitati in Parlamento, tensioni, bagarre. Chi difende il Movimento 5 Stelle dice, non dal punto di vista degli insulti, ma dice è l'unico che fa opposizione, e invece dall'altra parte c'è chi sostiene che gli animi siano trascesi talmente da parlare di deriva violenta, di deriva fascista. Oggi addirittura Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio dice questa è una deriva nazista, si alza ogni giorno l'asticella sempre più. Ebbene sì, dice Giuliano Ferrara, Grillo vuole abolire i partiti, è il becchino dei partiti, evoca la violenza coi suoi arrendetevi, consegnatevi, insomma è il Führerprinzip incarnato, tanto che, dice Giuliano Ferrara, Grillo dovrebbe essere bandito dalla scena pubblica, è un fuorilegge della democrazia, non può essere semplicemente criticato perché questa è blandizia e fiacchezza dello spirito, deve essere messo caput, fuori dalla democrazia. Addirittura, insomma, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire. Che ne pensate? Noi siamo in compagnia dell'onorevole Michela Marzano del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuta, onorevole, eccoci qua. Buongiorno. Voglio salutare anche Massimo Fini, scrittore, editorialista del Fatto Quotidiano e del Gazzettino. Ben ritrovato, Fini, eccoci, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Allora, Michela Marzano, intanto c'è da dire, per chi non la conosce, possiamo dire una politica atipica, eletta, insomma, in realtà Michela Marzano è una filosofa, docente universitaria, docente a Parigi. Tra l'altro viene quasi da dire, visto gli ultimi 48 ore, chi gliel'ha fatto scendere in questa arena? Lei ne è ancora convinta di quello che ha fatto? Ma guardi, dipende dal punto di vista, nel senso che in termini personali sicuramente no. Nel senso che la mia vita prima era molto più tranquilla e anche molto più, come dire, soddisfacente. C'erano le lezioni, c'era la scrittura, c'erano le conferenze, c'era anche intorno a me un certo consenso legato ai temi che trattavo. Quindi da quando sono invece in Parlamento non c'è più la pace, non c'è più la tranquillità, c'è molta confusione, c'è molta violenza. Lei era, ci ho detto, dice però... No, ci ho detto sì, vista la gravità della situazione ne valeva la pena, perché c'è comunque bisogno, secondo me, di portare avanti un certo discorso di fronte alla situazione complessa, confusa e violenta che si sta creando. Senta, non per fare un passo indietro, ma lei era tra le varie deputate del PD che avete denunciato questa aggressione, questa frase molto molto dura e a sfondo sessuale citata dal grillino De Rosa, credo, no? Insomma, adesso non è che vogliamo ricordarla, ma insomma la frase: siete qui perché fate certe pratiche. Cosa ha provato in quel momento? Ma guardi, in quel momento io sono rimasta abbastanza scioccata, nel senso che d'altra parte è il tipo di effetto voluto da queste frasi, nel momento in cui si insulta una persona perché non era un'opinione, non era un'idea, era un insulto, l'effetto è quello di bloccare la possibilità dell'altro di rispondere. Non è che ci si aspetta che l'altro risponda non è vero, perché lo dici e così via. È lo stesso risultato di quando si dà uno schiaffo a una persona, cioè far male a quella persona e impedirle di rispondere, impedirle di andare avanti. Per cui io sono rimasta scioccata, ovviamente non ho l'abitudine di essere trattata in questo modo, come immagino nessuna delle mie colleghe, però mostra bene da un lato l'incapacità che alcune persone hanno di portare avanti un discorso critico e dall'altro lato la violenza e la volontà di far male. Allora, la violenza e la volontà di far male. Laura Boldrini, poi le situazioni sono anche si sono esacerbate, se si può, nel weekend. E Laura Boldrini ha definito appunto così potenziali stupratori coloro che nel blog di Beppe Grillo l'hanno accusata e hanno usato anche insulti a sfondo sessuale. Chi segue questo blog, chi partecipa a questi sondaggi, non so neanche come chiamarli, non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che è inaccettabile. Questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori, perché la gran parte di questi che hanno commentato erano istigazione a questa cosa qua, dicevo. Erano, insomma, come dire, potenziali stupratori. Massimo Fini, ora adesso sotto accusa la rete o quella parte della rete o quell'uso della rete che diventa come una piazza pubblica nella quale uno sfoga anche i propri istinti più bassi. Si è spostato insomma il mirino del problema, quando invece il problema sarebbe discutere, ma insomma il provvedimento che è stato adottato per esempio al Parlamento è un provvedimento giusto o sbagliato, ma chiaramente la situazione è talmente generata che sono le modalità della protesta che sono diventate una notizia, o no? No, lei l'ha detto bene, è una degenerazione, i blog, tutti i blog, non solo quello di Grillo, sono un strumento in cui si incanalano frustrazioni, impotenze varie nel modo più volgare e più violento. Ecco, e questo è indiscutibile. Dall'altro, confondere la battaglia politica di 5 Stelle, quella che fa in Parlamento, anche con metodi duri, con i blog, o come fa Giuliano Ferrara che parla di nazismo, bello lui, voglio dire, no, perché è vero, si è andati incontro a una degenerazione notevolissima, però voglio dire, quando l'onorevole Berlusconi dichiarò all'estero che la magistratura è il cancro della democrazia, non vidi tanti scandalizzati, eppure era una dichiarazione di vilipendio alle istituzioni e ben oltre, cioè eversiva, gravissima. Quindi una parte di questa indignazione nei confronti di Grillo e del suo movimento è totalmente strumentale. E quindi il signor Ferrara, che da 30 anni fa il consigliore di tutti i possibili poteri, prima il PC, poi Craxi e adesso Berlusconi, io lezioni da costui francamente non riesco a recepirle, anche quando magari, non in questo caso, certamente. Perché sai, dare del fascista e del nazista è la cosa proprio, è una storia da blog, cioè di chi non ha argomenti. Sì. Chi non ha argomenti ti dà immediatamente il fascista e il nazista e ti chiude la bocca, è come dire appunto, ha ragione. Però che fare? Naturalmente. No, certo. Ha ragione la Boldrini però a prendersela di fronte a questi che sono chiaramente degli idioti, come definire, persone che spesso dietro l'anonimato si sfogano dando sfogo ai loro più bassi istinti. Ma io non li prenderei in considerazione, devo dire che c'è un'altra degenerazione all'interno di questa. I politici importanti, il Premier, il segretario del PD e poi gli altri, Brunetta, chi ti pare, parlano oggi attraverso Twitter l'un l'altro, creando poi polemiche che rimbalzano ancora sui social network e poi sui giornali, eccetera, eccetera. Io sono abituato a un mondo, sarà... in cui era diverso, cioè le cose si fanno, un politico parla in Parlamento e poi le leggi le vediamo scritte sulla Gazzetta Ufficiale. Qui è un, come si può dire, cioè la degenerazione complessiva, non riguarda solo questi frustrati bloghisti. Se ti butti su Twitter e se accetti che il dialogo politico sia sdoganato su Twitter, accetta allora che Twitter venga usato anche da tutti e quindi ti metti in piazza e succede tutto. È così Milan, se io fossi, vabbè no, non dico niente. No, perché lo dica? No, se io fossi, governassi questo paese con Mullah Omar, io tutti i social network li elimino di colpo. No, ecco, no, fine, fine. Alla televisione, guardi, lascio in piedi la radio e i giornali. Radio, vabbè, la radio, almeno la radio, Massimo Fini ci lascia la radio. No, cancellerebbe tutto, Facebook, Twitter. Ma sì, ma perché sono strumenti che amplificano... la volgarità e la, ripeto, la frustrazione che c'è, ma l'amplificano malissimo, l'amplificano nei modi di cui avete parlato fino a un secondo fa. Spostando poi qual è il punto centrale del problema. No, ma è interessante la discussione da questo punto di vista. Onorevole Marzano, la questione è dare spazio o non dare spazio a per esempio oggi il professor Luciano Canfora, intervistato da Repubblica, dice proprio questo: ma smettetela di dare spazio a queste buffonate. Non capisco quale demone abbia colto i giornali, tutti i giornali italiani, che fanno paginate e paginate su queste vicende. Vicende secondarie, nel senso importanti, ma non di lotta politica, di discussione politica. Parlarne o no? Ma guardi, bisogna parlarne, perché il problema non sono soltanto i social network. Io da questo punto di vista mi permetto di dissentire da Fini, cioè tutto è cominciato in Parlamento, tutto è cominciato, gli insulti non vengono da blogger anonimi, cioè noi abbiamo cominciato ad avere un collega deputato 5 Stelle, Soral, che parlando del Presidente della Repubblica lo ha definito boia. Gli insulti a me e le altre colleghe ha avuto luogo in Commissione Giustizia dopo che ci avevano impedito di poter lavorare, perché la Commissione è stata annullata perché era stata invasa dagli esponenti del Movimento 5 Stelle. De Rosa è un deputato. Quanto a Speranza, che è il presidente del gruppo del PD, non ha potuto fare la propria conferenza stampa perché è stato bloccato da Di Battista e da altri deputati. Quindi qui stiamo parlando di qualcosa che va al di là di social network. Poi, parlando di social network e di Twitter, non sono soltanto frustrati. Io non so se sapete, ma ieri sera a un certo punto abbiamo avuto un Twitter di Messora. Messora è il responsabile comunicazione 5 Stelle, che ha ripreso il discorso della Presidente Boldrini dicendo: non ti preoccupare Laura, anche se ci sono dei potenziali stupratori, a te non ti tocca nessuno. Cioè, è il responsabile della comunicazione 5 Stelle. Allora, da questo punto di vista, secondo me è importantissimo parlare di questi fatti, perché sono i deputati che portano la volgarità in Parlamento. Quindi sminuirlo no. Ripartiamo da questo punto. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Siamo con l'onorevole Michela Marzano e con Massimo Fini. Tra qualche minuto siamo ancora con voi. 24 mattino. Allora, sono le 8:39 minuti, siamo con l'onorevole Michela Marzano, con Massimo Fini, riprendiamo le fila del discorso ora anche con gli ascoltatori. Giovanni da Torino, Giovanni, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti. Dica. Volevo ricordare all'onorevole di presente, io voto Movimento 5 Stelle e non, insomma, voglio dire, sono contentissimo di quello che ho votato adesso, ma dove erano quando Berlusconi ne combinava tutti i colori, faceva le corna in diretta nei summit europei? Ne diceva di tutti i colori sulle donne del PD, tipo la Rosy Bindi, ne ha fatti di tutti i colori, dove erano? Cioè, immagino no? si può ribaltare la questione più che altro. Credo che Michela Marzano non sia un difensore dei comportamenti di Berlusconi, Giovanni da Torino. Si capisce perfettamente da elettore che questo è un attacco verso il Movimento 5 Stelle, perché sta spaiando tutta l'attività politica. Cioè, lo capirebbe chiunque. Il problema sono gli anziani che forse ancora non riescono a capire e comprendere cosa sta succedendo in Italia. Io consiglierei all'onorevole. Cosa sta succedendo? Io consiglierei all'onorevole, faccio il tassista, di venire a fare un giro a Torino, ad esempio, dove la città è deserta, stanno chiudendo aziende, fabbriche, la Fiat è completamente inesistente, aveva promesso anche al PD in piani di investimenti notevoli. Nessuno dice niente, la Fiat è sparita da Torino. Però questo, scusi Giovanni, e cosa c'entra rispetto alla degenerazione che c'è stata nelle ultime 48 ore? Ma di insulti, spintoni, fare un'opposizione politica è legittimo, fare anche l'opposizione al decreto IMU Banca Italia. Io tra l'altro ritorno su questa cosa, ne ha parlato Sebastiano Barisoni, ne parla tutti i giorni. Non è vero che non è stato detto che cos'è questo decreto, ne abbiamo parlato talmente tante volte anche in altre trasmissioni. È che quando poi la situazione è degenerata a tal punto, negli ultimi 48 ore, ripeto, si parla, è inevitabile che si parli anche dei modi nei quali si è contestato, non si può far finta di niente, o no Giovanni? No, però volevo chiedere all'onorevole, ad esempio, cosa c'entrava il decreto IMU con Vediamo, l'onorevole Marzano, non so, lei non è proprio il suo tema, però il decreto IMU Banca Italia e la questione della ghigliottina posta da Laura Boldrini, le è sembrata una cosa giusta? Sì, io intanto volevo un attimo, permettemi di rispondere al spettatore che è intervenuto, dove eravamo personalmente. Io nel 2010 ho pubblicato un libro il cui titolo è Sì, bella e stai zitta, proprio per contestare l'attitudine che c'era da parte di Berlusconi e di altri personaggi politici in quel momento nei confronti delle donne. Avevo lanciato una petizione su Repubblica con Barbara Spinelli, no, perché bisogna è per questo che ho detto non è certo difensore di Berlusconi. Ma tra l'altro, infatti, sa che è ribaltata questa questione, perché sia Ferrara ma anche oggi Sallusti dicono quando non c'è stata questa stessa mobilitazione, quando invece le accuse erano nei confronti delle donne del centrodestra di essere arrivate molte in Parlamento per meriti, diciamo, non politici. Ma c'è stato anche un errore da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico di non aver subito reagito. Ci ho detto all'inizio già della legislatura, quando ci sono stati attacchi a Mara Carfagna, noi siamo state le prime a intervenire dicendo che tutti questi argomenti non c'entravano, erano inammissibili e che la collega Carfagna lavora in maniera seria e così via. Ora, per quanto riguarda il problema del decreto, senza entrare adesso perché se ne è già parlato a lungo, parliamo un attimo della ghigliottina. Quando è intervenuta la ghigliottina? La ghigliottina è intervenuta mercoledì sera, dopo che per 3 giorni, con questo forte ostruzionismo da parte del Movimento 5 Stelle, non si faceva altro che sentire la ripetizione sistematica degli stessi slogan. Si chiama ostruzionismo perfettamente, ma quando dicono non c'è stata la possibilità di esprimerci per 3 giorni, hanno ripetuto esattamente le stesse cose. Cioè, quello che voglio dire è che non è stata tolta loro la possibilità di esprimere il punto di vista, addirittura non sapendo più che dire si sono messi a rileggere gli ordini del giorno che erano stati presentati. Ma erano azioni di filibustering, come si chiama, no? Di cercare di fare in modo di fare o scadere il decreto oppure dire cambiatelo, cioè fate un altro decreto sull'IMU urgente per evitare di far pagare l'IMU, scollegate le due vicende, cioè Banca Italia e IMU. E questo non è riuscito dal punto di vista politico, è una battaglia politica che si è persa. Però Massimo Fini, questa è c'è chi dice che è l'unica vera opposizione al Movimento 5 Stelle. È così secondo lei o cosa? Certamente, il Movimento 5 Stelle, adesso lasciando perdere tutte queste storie appunto più o meno bloghiste, che peraltro, ripeto, sono, ma abbiamo sentito anche recentemente dichiarazioni infinitamente più gravi, quando, mi spiace ritornare sul soggetto, ma quando Berlusconi recentissimamente dice che è stato vittima di 4 colpi di Stato, ma questo vale 100 dichiarazioni di un bloghista di Grillo o no? O siamo stati vittime, lui è stato vittima di 4 colpi di Stato, allora cambia tutto il panorama, o no? Non le pare? No, ma io posso essere d'accordo. Non ho sentito l'onorevole Mazzani e altri su un'affermazione così grave scandalizzarsi come sul fatto che quello dice, ma voi siete lì perché fate pompini. Questo è molto più grave. Detto questo, a parte il fatto che non si è capito perché il governo dovesse presentare insieme l'IMU e la storia Banca Italia. Perché uno dava la copertura all'altro. Allora, siccome non siamo scemi, e neanche i grillini lo sono, su questo hanno fatto opposizione, hanno fatto ostruzionismo, hanno fatto quello che sempre si è fatto in democrazia, a parte il fatto che in Parlamento... l'onorevole Marzano, spero per lei, credo che sia sufficientemente giovane per non ricordarlo, si sono viste di peggio e di più all'epoca di Pagliette e di altri, scazzottature e tutto quanto. Non è questo il grave. Il grave è un'altra cosa, la sostanza poi è un'altra cosa. Cos'è che contrappone 5 Stelle e tutto il resto del sistema? È il fatto che il sistema dei partiti, di cui fa parte anche l'onorevole Mazzano, non è la democrazia, si chiama partitocrazia, ha abolito la democrazia in Italia, ma non da oggi, da 40 anni, e questo è il problema di fondo. Poi ci si attacca a delle sciocchezze, delle stupidaggini, delle eccetera, per attaccare il Movimento 5 Stelle. Ma questa è la situazione, è un po' quello, si ripete quello che c'era con la Lega delle origini, sì, demonizzata al massimo grado, eccetera, eccetera, perché era un movimento contro il sistema dei partiti, poi è stato inglobato nel sistema dei partiti. E vabbè, quella poi è stata un'altra storia. Però sciocchezze e stupidaggini, ripartiamo tra un attimo dopo il traffico, se sono davvero così, nell'ultima parte di 24 mattino. 24 mattino. Vorrei sentire Giuseppe da Taranto, ci chiama. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Dica. Ma semplicemente mi volevo ricollegare all'intervento che ha fatto il signore in precedenza di Torino, che è un grillino. Io non sono un grillino, ma sono infastidito da questo tiro al piccione che si sta verificando in questi ultimi 2-3 giorni. Parliamoci chiaro, per delle stupidaggini, perché che si sia detto in Parlamento, ma in Parlamento si è detto anche di altro, forse la signora la deputata non ricorda della vaiassa data fra colleghe. Sì, ma sì, in 40 anni, 50 anni, 60 anni sono dette tante cose. Se ne sono dette tante. Il problema è un altro però, è il disagio che c'è. Io non sono un grillino, assolutamente, però vedo intorno, mi ritengo un fortunato perché ho un'attività che comunque mi consente di lavorare senza grossi patemi, sì, ma intorno sì. A me vedo la disperazione. E quindi secondo lei la disperazione porta anche a questo tipo di... No. Là dentro, quei grillini che sono là dentro, quelle persone, sono, è gente comune, non è avvezza alla politica, quindi sì, manifesta in modo anche istintivo quello che è la, come dire, la rabbia che magari... Ho capito, però capisce qualcuno... Giuseppe, che lì si rischia di sdoganare anche il deputato De Rosa, che di fronte a 6 deputati Perfetto. O 7 deputate si lascia andare a delle frasi, insomma, che forse è inutile negarlo, ci sono in una trattoria di quart'ordine, ma vabbè, però lì siamo al Parlamento. Che dobbiamo fare, Giuseppe? Comunque la ringrazio. Romano da Roma, è caduta la linea? No, sì, c'era Romano da Roma, l'abbiamo... C'è Romano, buongiorno. Salve. Ah, eccoci, buongiorno, dica. Da Roma, Romano, nome di battesimo. Perfetto. Quando ci fu il fenomeno Grillo, mi intervistarono, dissi, se lo mangeranno. Ma intervistarono chi? Lei, perché? Una televisione per la strada. Ah, vabbè. La vera violenza, caro amico mio... sono che i politici hanno creato un sistema nel nome della democrazia che è onnivoro, ma non sono le ruberie, l'incredibile numero dei partiti che ci hanno messo in ginocchio. Lei la pensa come Fini, insomma. Quanto la devastante, insaziabile finanza internazionale. Il grande poeta Ezra Pound già nel 1940 tuonava contro l'usura e invece esaltava il chicco di grano, il contadino che ci dà il pane. Non è cambiato nulla, il fenomeno ora si è ingigantito, per non parlare dei derivati. Quindi sì, il problema ormai globale è la finanza internazionale, sì, ed è questa la vera violenza. La vera violenza è questa, lei dice, non le, come le ha definite, onorevole Marzano, le sciocchezze, le stupidaggini le ha definite Massimo Fini, di quello che purtroppo può succedere, è successo anche in passato in Parlamento. Lei vede una pericolosa un pericoloso tentativo di sminuire di fronte a questo approccio? Sì, io vedo un tentativo di sminuire, perché quello a cui si è assistito in Parlamento in questi ultimi tempi non sono né sciocchezze né stupidaggini, ma è un vero attacco all'istituzione. Il problema è che si confonde l'opposizione all'interno dell'istituzione, che è legittima, è importante e necessaria, con l'opposizione all'istituzione. Non ci dimentichiamo che la volontà dei 5 Stelle era quello di arrivare in Parlamento e di aprirlo come una scatoletta di tonno, ed è quello che stanno cercando di fare. Non sono stupidaggini, anche perché io vorrei vedere anche le persone che sono intervenute. Era una metafora non violenta, lei vede una metafora violenta in questo aprirlo? Non è una metafora violenta, sto dicendo che lo scopo però è quello di aprire l'istituzione, quello di distruggere l'istituzione, non è quello di utilizzare l'istituzione per affrontare i problemi drammatici, perché io sono d'accordo con chi è intervenuto, credo Giuseppe da Taranto, la situazione economica è drammatica, ma questo noi ne siamo tutti consapevoli, ma siamo sicuri che il modo migliore per cercare di trovare una soluzione a questa situazione è quella di perdere tempo. Quando le commissioni vengono sconvocate e si devono riconvocare l'indomani mattina e vengono sconvocate di nuovo, si perde un tempo infinito invece di lavorare effettivamente sui provvedimenti. Cioè lei dice il Movimento 5 Stelle fa perdere tempo invece che cioè nel loro modo di fare, in realtà vogliono solo far perdere tempo, bloccare l'istituzione per mostrare che non funziona, che poi ci siano stati dei problemi negli ultimi 20 anni, ma io sono stata sempre la prima a denunciarlo, quando Berlusconi si è permesso di attaccare la magistratura, ma io sono stata la prima a denunciare anche quello e voler fare a pezzi le istituzioni democratiche, i poteri che si contrappongono, legislativo, giudiziario e così via. Il problema non è questo, il problema è opporsi a ogni tentativo di distruggere le istituzioni, quanto al comportamento dei deputati 5 Stelle in Parlamento. Io francamente ho la sensazione che talvolta giocano, si divertono, ridono, si fanno delle battute, è come se stessero veramente organizzando dei giochi tra di loro. Sì. Solo che in Parlamento non si gioca, in Parlamento si lavora, ci sono dei decreti che vanno studiati, che vanno analizzati, degli emendamenti su cui bisogna riflettere. Tutto questo è accantonato da una volontà di in realtà non far nulla. Addirittura dice anche di gioco. Insomma, Massimo Fini, su una cosa, Fini, penso che può essere d'accordo pure nella difesa del Movimento 5 Stelle come unico movimento politico, sì, che fa opposizione. Ha visto cosa è successo con Augias? No, non ho visto, anche perché sa... anche seguire tutte queste cose. No, è difficile. Allora lo riassumo così: Augias è andato da Daria Bignardi alle invasioni barbariche e ha detto questo. Quello che hanno fatto in questi giorni in Parlamento è squadrismo. Si chiama così, è squadrismo. È quello che ha detto. Vabbè, squadrismo, no? E questo si riferiva al Movimento 5 Stelle. Che ha fatto il responsabile di un Movimento 5 Stelle, di un meetup? Ha bruciato il libro di Augias, bruciato, e ha messo anche la foto, sempre su Twitter, del rogo. Il rogo del libro non è una bella cosa, No, che è uno scrittore. Mi ricorda Reichstag e tante altre cose. Però qui giriamo intorno al problema di fondo. Le istituzioni in Italia non sono le istituzioni, sono occupate da 30 anni, 40 anni dai partiti che non sono le istituzioni. Il Parlamento è occupato dai partiti, la Presidenza della Repubblica è fatta dai partiti. La RAI Televisione Italiana, ente di Stato, cioè nostro, è occupato dai partiti. Questa è la lotta nella sostanza del Movimento 5 Stelle, che poi può sbagliare in qualche caso nei modi, ma il motivo di questo tiro al piccione su qualsiasi sciocchezza o stronzata che può dire o fare il 5 Stelle ha un retroterra molto diverso, e cioè è il sistema dei partiti che si arrocca nelle istituzioni, che non vuole assolutamente mollare questo potere in debito, perché nell'articolo 49 si dice i cittadini possono organizzarsi in partiti per concorrere a formare la volontà nazionale. Sì. Bene, un solo articolo, hanno occupato gli altri 138, questo è il problema, è per questo che Grillo e Company vogliono abbattere istituzioni. aprire quell'istituzione, che vuol dire, però io immagino, come l'avevano detto, aprire per renderla più trasparente. Poi insomma succedono anche giornate come queste. Io comunque mi devo fermare, ringrazio l'onorevole Michela Marzano del Partito Democratico e Massimo Fini. Ci ritroviamo alla prossima, all'appuntamento è domani alle 7.30, stasera se volete sono in TV su 7 Gold, come sempre, Funamboli alle 21.10. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.